J'm'en vais là-haut sur la butte pour regarder Paris, paradis des larbis. Tu vois tu vises des parvis au parking, y'a que de l'asphalte, c'est malsain même sans un tas de gros mots. Fraudeur de la NASA, un clandestin en compi d'astronaute. J'm'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. J'm'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Bentornati sulle libere frequenze di Radio Wombat, finalmente con una nuova puntata di Carta Canta che aspettavate da tempo. Purtroppo recentemente siamo stati un po' impegnati, quindi per qualche settimana non avete potuto sentire la nostra bellissima voce che vi raccontava i fatti della settimana con le nostre letture taglienti e i nostri commenti non sempre politicamente corretti, però finalmente ci siamo ripigliati e proveremo in queste prossime settimane a mantenere un po' più di costanza. Questa settimana si è aperta con due fatti molto importanti. La prima sicuramente è l'uscita dell'ultima stagione di Game of Thrones, che ha sconvolto il panorama italiano di tutte le latitudini e di tutti gli orientamenti politici. La prima puntata non so se l'avete vista, ma è stata un po' noiosetta, per cui non ci attarderemo a commentare ulteriormente questo evento. Invece ci soffermeremo un po' di più a commentare l'altro evento di ieri sera, che come sempre ha scomodato tutti quelli che potevano dire la loro, anche loro di qualsiasi latitudine, come siamo ormai abituati nel mondo dei social network, dove veramente ognuno ha le capacità di esprimersi e soprattutto gli strumenti per farlo. E mi sto riferendo ovviamente all'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame nella serata di ieri, e ovviamente si è sentito tutto il contrario di tutto, da chi ha detto che questo incendio è il simbolo della perdizione in cui è caduto il mondo occidentale, che dobbiamo preoccuparci per i nostri peccati, stronzate del genere, a chi comunque sottolineava, non si sa con quale collegamento logico, che era assurdo indignarsi per una chiesa che bruciava quando poi i bambini in Africa muoiono di fame. Vabbè, le solite cose che siamo un po' abituati a leggere sui social network, comunque il benaltrismo, il catastrofismo, insomma c'è stato un po' di tutto. Per questa chiesa che era stata risparmiata pure dalla Comune di Parigi, che pure di chiese ne aveva distrutte parecchie, e invece è stata distrutta nel 2019, da quando ormai queste cose si pensa che non possano più succedere, da un fuoco che ancora non si è capito bene come è stato appiccato. Tra tutte queste cose, l'unica cosa, uno dei pochi commenti che mi sento di condividere e di leggere, perché comunque mi sembra una lettura se non altro interessante, che se non altro si è discostata un po' da quelli che sono gli altri trend di commento sull'argomento, è questo post che vi leggo, di Alessandro Lolli, che forse alcuni di voi conoscono come il capo del Sinistra Libro Italiano, che sarebbe la comunità di memer più o meno sinistrorsi, più o meno compagni, che frequenta quell'orribile posto chiamato Facebook e condivide con noi, se non almeno una lingua in comune. Vi leggo questo commento che secondo me è interessante. Ci ricordano spesso che la vita umana trae il suo senso dalla morte, dalla fine di tutto, mentre questi palazzoni li vorrebbero eterni, in piedi fino all'apocalisse nucleare o alla trasformazione del sole in gigante rossa. Dal dopoguerra l'UNESCO si aggira per il mondo come un maniaco fissato alla fase anale, col sogno di preservare il nostro patrimonio e farcelo vedere e rivedere sempre uguale. Ieri abbiamo visto qualcosa di diverso, di imprevisto, di irriproducibile. La chiesona d'isola della città, dopo 80 anni di monologo, ha cambiato repertorio. Ha chiesto e ottenuto la nostra attenzione. A me gli occhi, please. Questo lo farò una volta sola. Oggi abbiamo tutti negli occhi le immagini meravigliose di un capolavoro gotico che brucia. Lo scheletro esposto nero sul rosso. L'accasciarsi della torre. Poteva andarci peggio. Potevamo tenerci il palazzone muto e austero per altri 800 anni, così come lo troviamo su Google Images. E invece guarda qua. È una lettura senz'altro provocatoria, ma comunque interessante, che riporta un po' l'attenzione su l'irriproducibilità del gesto, cioè come scriveva Benjamin nella sua opera, l'opera d'arte al tempo della sua riproducibilità tecnica, che comunque sicuramente il fatto che ogni opera d'arte possa essere ormai riprodotta totalmente in serie dai mezzi della tecnica, per cui mi viene da dire che non sarà nemmeno troppo difficile ricostruire da capo una nuova Notre Dame, sarebbe sicuramente possibile. E questo invece è un gesto sicuramente riproducibile, che sicuramente abbiamo potuto vedere una volta sola e non ci ricapiterà mai più. E un po' in questo sta anche la bellezza dell'opera d'arte, nell'evento, nell'atto che squarcia un po' il continuum e ci fa intravedere qualcosa che prima non avevamo intravisto. Le foto della cattedrale che bruciano, permettetemi il termine, sono veramente molto molto belle. E questo forse dovrebbe portarci anche un po' a riflettere su cosa è l'arte per noi al giorno d'oggi. Se non sbaglio, anche a riguardo dell'11 settembre qualcuno aveva detto una cosa del genere, lì in maniera ancora più provocatoria, perché se non altro possiamo dire che a questo giro fortunatamente non sono morte persone. Però comunque è una lettura che ci riporta anche un po' a quello che era il modo di fare arte dei futuristi, a vedere non solo nella costruzione, non solo nell'arte eterna, immobile, immutabile, sempre uguale a se stessa, ma anche nella fugacità del gesto, dell'atto, anzi proprio perché l'atto è fugace, è irriproducibile, è limitato in un tempo brevissimo, proprio qua dentro, in questa cosa ancora più inafferrabile, che non ha niente a che vedere con la contemplazione, ma abbraccia di più le categorie del dinamismo, della fugacità, è proprio in questo vedere la forma più alta dell'arte. Mi piace avere senza pagare, mi piace rubare, criminale, e prendo quello che voglio se non mi faccio beccare. Let's go. Ma le chiese che bruciano, per quanto belle possano sembrare a molti, non sono l'argomento della trasmissione di oggi. Oggi invece vogliamo parlare di un argomento veramente immenso, infinito, di cui, se ci seguite sul nostro blog, che, di cui ricordiamo l'indirizzo è origami.noblogs.org, abbiamo scritto anche questa settimana e probabilmente torneremo a scrivere in futuro, poiché ci sembra un argomento molto centrale per noi, per il nostro modo di fare politica, ma anche per il concetto che abbiamo di rivoluzione, di cambiamento, e quindi sicuramente torneremo a parlarne. Questo concetto è il concetto di comunità, comunità che poi è legato a un altro concetto molto importante, che è il concetto di comune, ma di cui magari parleremo più in avanti nella puntata un po' meglio. Se avete delle osservazioni sull'argomento, se ci ascoltate in diretta il martedì all'ora di pranzo, potete mandarci le vostre impressioni, i vostri commenti, anche i vostri insulti se volete, all'indirizzo email origami@disroot, scritto disroot, disroot.org, oppure per chi di voi utilizza quello strumento malvagio che è Facebook, potete scriverci alla pagina Origami, Castelli di Carta e Altre Storie. Ok, comunità. Cosa intendiamo per comunità? Ovviamente non ci riferiamo a qualsiasi tipo di comunità, ma intendiamo quelle che volgarmente nel linguaggio comune sono chiamate, definite come comunità in lotta o comunità di lotta. Comunità di lotta perché possiamo dire che non sono comunità che, cioè alcune sono anche comunità preesistenti alla lotta, che si mettono in lotta, ma nel nostro caso, soprattutto nella società occidentale per cui siamo abituati, o almeno delle comunità di cui vorremmo parlare noi, sono proprio comunità che si formano attraverso la lotta e per la lotta. Quindi ci sembra più corretto parlare di comunità di lotta piuttosto che comunità in lotta, poiché appunto il concetto di comunità non è preesistente alla lotta. Possiamo forse affermare con un po' di arroganza che queste sono le uniche comunità che ci interessano, poiché indubbiamente esistono tantissimi tipi di comunità, anche una setta religiosa indubbiamente è una comunità, anche un club di ricconi che si ritrovano per giocare a golf può essere una comunità, possono esistere tanti tipi di comunità con i valori più disparati e diversi. A noi interessano le comunità che si formano attraverso la lotta, che forse in senso stretto possono anche essere definiti, secondo un determinato filone di pensiero politico che si rifà principalmente al pensiero di Giorgio Agamben, come le uniche comunità vere e proprie, come le uniche comunità tuku, poiché per Agamben effettivamente in un libro molto famoso che ha ispirato poi anche tanto pensiero politico, soprattutto pensiero politico francese, se andate a leggervi tutti i lavori di Tikkun che ora affronteremo, ma anche tutti i lavori seguenti del Comitato Invisibile, che comunque ci sentiamo di dire che hanno avuto un bel peso nella formazione, soprattutto di una parte consistente di quella che è la generazione di militanti che ora attraversa le lotte francesi, e che comunque abbiamo anche letto in Italia, e abbiamo discusso, abbiamo affrontato, e sicuramente hanno influenzato anche noi, chi più chi meno. E sono in gran parte basate, oltre che sui vari pensatori canonici del pensiero francese, i vari Gattari, Deleuze, Foucault, anche sui lavori di questo filosofo italiano, che però ormai è naturalizzato francese, che scrive in francese gran parte delle sue opere, che su questo concetto di comunità ha costruito un'intera filosofia. E per Agamben la comunità vera e propria è vista proprio in contrapposizione al concetto di Stato. La comunità infatti è quel soggetto politico che porta in sé i veri e propri crismi di quello che è l'umano, è proprio il difensore dell'umano, contro invece il progetto di razionalizzazione e burocratizzazione che porta in sé il progresso occidentale, che è il progresso, che è il progetto dello Stato, come tutto quello che invece nega questa umanità. Per cui la comunità vera e propria si costruisce solo contro lo Stato, solo in quanto combatte lo Stato. E è infatti una comunità che viene, una comunità che possiamo dire è in potenza, non in atto, e sarà attualizzata solo quando vincerà, quando riuscirà a distruggere lo Stato. E allora sarà una vera e propria comunità. Una cosa che invece è in atto, di cui parleremo un po' più avanti, è la comune. La comune, in quanto diciamo un momento di attualizzazione di questa comunità in potenza, seppur circoscritta nel tempo e nello spazio. Ha ha ha ha ha! nella nostra concezione di comunità, di sicuro fondamentale è tutto il concetto, tutto ciò che sta intorno alle relazioni umane, ai rapporti. Scusate. Soprattutto a quello che può essere insieme all'aspirazione tra i membri della comunità, e che è fondamentale affinché si possano portare avanti quello che è un progetto di lotta o di comunque una forma di vita diversa. E proprio di questo parla il collettivo Tikkun, la comunità terribile, parlando di zone di opacità offensiva, e di cui vorrei leggere un estratto. Scusate, non ce la posso fare. Sosteniamo i neofiti della radio. E allora, la cospirazione dei corpi, non degli spiriti critici, ma delle corporalità critiche. Ecco cosa teme l'impero. Ecco quel che lentamente avviene, con l'accrescimento dei flussi, della defezione sociale. C'è una opacità inerente al contatto dei corpi, e che non è compatibile con il regno imperiale di una luce che non illumina più le cose, se non per disintegrarle. Le zone di opacità offensive non sono da creare. Ci sono già in tutti i nostri rapporti in cui avviene una reale messa in gioco dei corpi. Quel che serve è assumere che facciamo parte di questa opacità e dotarsi dei mezzi per estenderla, per difenderla. Ovunque si arriva a mettere in scacco i dispositivi imperiali e a rovinare tutto il lavoro quotidiano e il biopotere dello spettacolo per estrarre dalla popolazione una frazione di cittadini, per isolare nuovi untorelli. In questa riconquistata indistinzione si forma spontaneamente un tessuto etico autonomo, un piano di consistenza secessionista. I corpi si aggregano, ritrovano fiato, cospirano. E... ce posso fare? Sì, quello che dicevi mi riporta anche un po' alla mente quelli che erano due slogan molto in voga negli anni 70. Vabbè, il primo è ovviamente il personale è politico, che sostanzialmente diceva proprio questo, cioè che i momenti più alti di rivolta politica, di ribellione, ma anche di elaborazione di teorie per immaginarsi qual è il mondo che verrà, non devono partire da astratti programmi, da programmi di massima, dall'organizzazione dell'economia, dalla riappropriazione dei mezzi di produzione o comunque da prescrizioni sì importanti ma che non hanno un effetto immediato e reale sulla vita delle persone, ma appunto dai nostri problemi personali e per cui devono essere affrontate qui e ora senza doverle posticipare poi a un ipotetico momento di rivoluzione in cui magicamente il cielo cadrà sulla terra e saranno risolti tutti i problemi. Sì, di sicuro è anche fondamentale riportare, diciamo, un piano dell'esistenza all'interno di quello che è dell'esistenzialità, all'interno di quello della lotta, e alla fine partire nel lotte da quelli che sono i bisogni primari e di base dell'umano, cioè come può essere il lavoro o la casa, è utile e cioè, è più che essere utile di per sé alla lotta, è utile in quanto può far rendere conto alle persone che vi è un livello superiore di bisogno, che è quello che dovrebbe essere realmente soddisfatto, che è il bisogno di non stare da soli, di vivere in comunità, di essere felici, che alla fine è quello che manca nella società odierna. E questo mi riporta al secondo slogan a cui stavo pensando, che penso sia stato usato per la prima volta da quella che era un po' l'ala bolognese del movimento dell'autonomia, che sappiamo tutti che era l'ala un po' più creativa, con le letture anche un po' più originali, anche un po' più fuori dagli schemi, che ha dato vita a esperienze importantissime come la rivista Attraverso, Radio Alice. Questo slogan è cospirare e respirare insieme, che ci riporta immediatamente a comunque una dimensione di felicità immediata che si ottiene attraverso la lotta, attraverso la ribellione. Felicità che appunto si ottiene subito nel momento stesso della ribellione e non un domani quando veramente avremo ottenuto la vittoria. Felicità che si ottiene anche in caso di sconfitta, per il semplice fatto che ci si è ribellati. E infatti proprio questo forse per noi è importante, il sottolineare che la lotta di per sé non è solo sacrificio, non è solo un combattere per un domani migliore, per un mondo più giusto, ma è anche un essere felici subito, un vivere nel momento stesso in cui si decide di lottare, dei momenti di gioia, dei momenti di felicità, di poter stabilire delle relazioni reali e non mediate dal rapporto di capitale, dalla forma merce, ma vivere da subito in maniera più realizzata e potremmo dire più autentica. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Corpi attaccati su corpi, ride il boia al tuzzino, non c'è più tempo da perdere, è già troppo tempo. Sarà una notte bellissima, saranno giorni migliori, sarà che tempo di muovere, che c'è troppo tempo. Che ne sia valsa la pena, che sia un esempio per noi, senza più uscite di scena e senza trionfi da eroi. Che ne sia valsa la pena, che sia un esempio per noi, senza più uscite di scena e senza trionfi da eroi. A caso questo bellissimo pezzo è tratto dall'ultimo album dei Contrasto, che si chiama appunto Politico Personale. Penso non a caso che sia molto legato a quello che abbiamo detto finora. Invece parlavamo prima della distinzione tra comunità e comune, e a questo proposito Sì, proprio appunto parlando di comunità, proprio ieri è uscito un articolo di Marcello Sarì sulla rivista online QueerOra.inc, e ve ne leggeremo un estratto. Condensatore di intensità. Durante gli anni venti, nella Russia sovietica in piena guerra civile, un gruppo di architetti bolscevichi, i quali credevano che si è comunisti non perché si cambia qualcosa nel modo di produzione o, nel loro specifico, nella maniera di costruire abitazioni, ma perché si è impegnati innanzitutto nella trasformazione della forma di vita quotidiana, in russo bit, inventarono una nozione di condensatori sociali per esprimere il concetto che si erano fatti nell'abitare, dell'abitare nella rivoluzione. Il fine interno dell'architettura nel processo rivoluzionario, come di qualsiasi altra tecnica, era per loro concepibile solamente come la realizzazione diffusa di un'immensa felicità profana. Rivoluzione è, diceva Alexandre Bloch, rifare tutto, fare in modo che tutto diventi nuovo, che la nostra falsa, sporca, tediosa, mostruosa vita diventi una vita giusta, pulita, allegra, bellissima. Erano perfettamente consapevoli che se la rivoluzione non avesse puntato immediatamente verso questo obiettivo, senza più attendere e con tutta la furia di cui disponeva, si sarebbe perduta, come infine accadde. In breve, infatti, loro stessi furono liquidati dallo stalinismo, ma quello che cercarono di fare e che rimane esemplare non fu nulla di meno che la distruzione della città borghese come gesto preliminare alla destituzione delle sue forme di vita e, nello stesso momento, progettare febbrilmente delle comuni di vita. In fin dei conti, il povero Engels non aveva forse scritto che lo spazio urbanistico è lo spazio strutturato dall'ideologia? Ogni manufatto, architettonico o altro, doveva così configurarsi come fosse un condensatore delle energie rivoluzionarie che circolavano nella Russia bolscevica. Un'idea dell'abitare e dell'uso per la quale forma e contenuto coincidevano in un punto strategico, quello del nuovi bit, della nuova forma di vita. Il condensatore, proprio come quello elettrico, doveva servire a trasformare la natura della corrente sociale e quindi l'individuo possessivo, piccolo borghese, in qualcuno per il quale il proprio interesse si confondeva immediatamente con l'interesse della comune, in quanto forma di vita. Un condensatore sociale, dunque, era la comune che funzionava come interruzione materiale dello spazio ideologico della città borghese, un insieme di luoghi che avrebbero permesso l'intensificazione spirituale del processo rivoluzionario. Nel condensatore avviene questo passaggio verso un'indiscernibilità tra individuo e forme di vita, che sposta radicalmente i termini di riferimento del politico, creando un campo di tensioni nel quale il polo comunista accumula una potenza pronta a scaricarsi sul terreno dell'habitat e dell'habitus, cioè delle forme dell'abitare quanto della conduzione quotidiana dell'esistenza. La città stessa, nella loro visione, doveva divenire complessivamente un condensatore generale, ovvero un gigantesco campo di forze continuamente sollecitato dalla divisione e dall'incontro e dunque a una continua ripoliticizzazione dello spazio. Nell'antico manifesto comunista si diceva che le condizioni di esistenza delle vecchie società sono già annientate nelle condizioni di esistenza del proletariato, perché il proletariato è quella figura che è senza proprietà, senza famiglia e senza nazione, e ciò significa che la forma di vita dominante può essere destituita solo da un'altra forma di vita. La comune, in fondo, non è altro che il mezzo in cui si afferma, cioè vive, la forma di vita comunista. L'idea e la pratica stessa della comune non ci è estranea, poiché essa rimerge sempre ad ogni evento rivoluzionario, e tuttavia ogni volta come fosse la sorpresa che buca la storia. L'abbiamo ritrovata a Auckland, a Istanbul, al Cairo, in Chiapas, nella facoltà occupata, nella fattoria autonoma, nelle ZAD, nel libero uso o forse molto più essenzialmente, anche se per frammenti, nell'accadere del comunismo da cui veniamo quotidianamente toccati. La comune è il più potente condensatore di energie rivoluzionarie a nostra disposizione. Come già per gli architetti russi, dobbiamo pensare che un condensatore, quale è una comune, non è qualcosa che ha a che fare semplicemente con l'idea della vita. È una struttura materiale che non si accontenta di confermare o sconfessare il reale, ma funziona come matrice del possibile. Giustamente, parliamo di comune e non di comunità. L'unica comunità di cui possiamo forse dire di aver fatto esperienza è quella immediata che appare nella rivolta, che è un lampo che frantuma la normalità, nel quale non si costituisce mai nulla e la cui tensione sta nel distruggere tutto ciò che è. È il momento anarchico che agisce come una funzione destituente assoluta, senza alcuna mediazione, un po' come Sorel descriveva lo sciopero generale proletario. Bisogna impadronirsi del suo tutto indiviso e concepire il passaggio dal capitalismo al socialismo come una catastrofe. Il cui processo sfugge alla descrizione. Oppure è quella che sperimentiamo abbandonandoci al corpo e all'anima dell'altra, quando si crea quella zona dove io non sono più io e tu non sei più tu. Tutto ciò è inesprimibile, Per questo deve essere pensato come pura interruzione, nel senso che Walter Benjamin dà al potere del privo di espressione, il quale spezza la totalità falsa, bugiarda, ingannevole, in breve la totalità assoluta. La comunità non è generalizzabile proprio perché vive solo nella puntuale, violenta sospensione della rappresentazione, il che non ha un limite ma la sua specificità, la quale permette alle intensità che vi hanno trovato luogo di operare la trasmutazione di chi vi è venuto a contatto e così divenire il resto di quella comunità senza nome. Ed è sempre quel resto che, rammentando se stesso, si riattiva ad ogni nuova rivolta, ad ogni nuovo amore, ad ogni vero incontro. Per la comune il discorso è diverso, perché è un esperimento pratico, locale, che crea una propria durata, un cominciare sempre di nuovo che investe il mondo a partire da quando 2, 10, 100, 1000 persone decidono di iniziare a vivere secondo la loro regola, in autonomia appunto. La comune è l'interruzione della storia che comincia ad avere un proprio ritmo e a fare presa sullo spazio e, grazie alla sua capacità di trasformare l'energia accumulata, l'evento si fa nuova temporalità. L'intensità della comune non è il suo contenuto, ma indica il suo grado di esistenza, la profondità del suo spirito e quindi la sua comunicabilità. È ciò per cui essere e cose si legano interiormente gli uni con gli altri, una comunabilità, potremmo chiamarla, immediata, e infine come quella di ogni comunicazione linguistica. Ed è magica perché c'è anche la magia della materia. L'intensità della comune fa sì che sia una forma della distruzione di tutte le forme della libertà, come solo è capace di fare la fantasia. Chiamo quindi condensatori di intensità tutte quelle tecniche materiali e immateriali che funzionano come trasformatori dell'energia che ogni intensità porta con sé. Più una cosa è intensa, più precisamente è questo il suo rapporto all'essere. L'intensità della cosa è il suo rapporto con l'essere. L'intensità sono quelle pulsazioni affettive che, passando tra quei concatenamenti di frammenti d'essere di cui sono fatte le forme di vita e rendendole così comunicabili, ne aumenta la potenza o le annienta, ovvero gli dà più realtà o gliela toglie. Per questo l'attenzione all'uso e all'intensità è così importante, tanto nell'avventura amorosa che in quella rivoluzionaria. Ogni volta che facciamo cattivo uso di questa attenzione o siamo semplicemente negligenti, manchiamo quell'appuntamento per cui siamo stati attesi sulla Terra e veniamo puniti con la diminuzione della nostra propria realtà. Un condensatore di intensità è allora una tecnica che, cercando di dominare il rapporto tra individui, natura e storia, permette di comunizzare le correnti di energia individuali, non eliminandone mai le singolarità, anzi esaltandola. In questo senso, esso può essere detto un mezzo di organizzazione dell'interiorità del campo rivoluzionario, proiettata verso il di fuori, se per organizzazione intendiamo la sua comunabilità ed esprimibilità. L'organizzarsi delle intensità della comune è molto diverso dall'attività di organizzare degli individui in un collettivo. Mentre quest'ultima produce uno schema di funzionamento umano, troppo umano, quella delle intensità genera delle mutazioni ontologiche a partire dal venire a contatto con un luogo, la comune, che non può mai essere composta solamente da esseri umani, ma esiste solo nella misura in cui esprime una certa comunabilità tra individui, animali, piante, macchine, libri, musiche, racconti, spiriti, un mondo. I condensatori di intensità sono la magia che opera nella materia del comunismo. Roma stamattina, anzi, ma si è spesa tra 6 milioni di ansi, ma. Roma inghiotte l'ansia e caga adrenalina. Siamo nella merda, ma pazienza con C. Ma non ci basterà, non ci basta il rap. Che sta città spera in un incendio, ancora non lo sa, non lo sa. Roma è sta passa creste nelle teste, plodirai. Io tesoro, te solo mi capisci quando sbaglio. Dai, non arrivi mai al dunque. Rischi di vedermi chiuso al gabbio in aula bunker. Cin cin col brutto e flut, brindo a tutto il crew. Crudento contro le T, pise blu, blu. Comazzo su un bus, paonazzo. Dopo un giro di raccordo butto giù un romanzo. Tu sei scaltro, altro che punti allo scranno più alto a me. Basta il tuo scalpo sul palco come Malcolm. Ardo, Arcor, Giuliano, D'Arco. Copri fuoco, Roma S. Non è un gioco nada, l'essere rogo delle chiacchiere, combattere l'apocalisse, la poca linfa di chi disse nulla cambia mai come le stelle fisse. Suono buono per la fine, soundtrack per chi non arranca, sogna picconate su una banca, ben fondo che ti manca, sto gran beller can can, armati titanica che è un'impresa titanica, dimmi timpanica, miti di plastica, knockout atletica contemplativa, non ci basterà, non ci basta il rap, che sta città spera in un incendio che ora non lo sa. 5 e mezza picchietto, caffè corretto, cornetto, cappotto nero ed elmetto, catapulta sul tetto. C'è chi parla di rivolta ma mente, lotta fatta di chiaffi e pezzi del piotta, mentre crema Roma, eccolo, serpenzeno giù, se l'estrigoni strada come Kendrick a Ferguson. Lascia stare l'hashtag, meglio armati di un'ascia, sveglio coi demoni in pancia, stendo un piano di rivalsa, danza sulla lama di coltellacci, occhi e passi, la madama è nei paraggi, quindi è mucchio sassi, mastico l'interiore, testa coda, uno poro, nada l'estero, guarda ancora, death before dishonor. Troppo poco spazio tra un palazzo e l'altro, all'atto la serpa a doppio malto fino al giorno del disastro. Un astro nascente, un astro s'accende, un mastro s'accende, tu se rappi cacci la gente, rapper medio mediocre, se non credo a te come al medio le vincite del video poker. Pose plastiche da poser con le natiche di poster, mentre nei commissariati fanno hostel. Sicuramente fondamentale, anche pensando al testo appena letto, è tutta la concezione dell'urbanismo e dell'architettura stessa in rapporto con la comunità e la politica. E mi viene da pensare alla città dei desideri, o Aristis, di Van Eghem, che è un testo in cui egli ripercorre, diciamo, tutto proprio una struttura di una città che sia fatta per stimolare costantemente i rapporti e la diversità tra diversità di essi e, diciamo, lo scambio e la relazione tra tutti i soggetti e i membri della città, e che diventi quindi una gigantesca comunità. E questo ci porta anche a pensare che il concetto di rivoluzione, il concetto di comune, non possa essere separato da comunque il concetto di abitare. Cioè, rivoluzione in questo senso è proprio inventare un nuovo modo dell'abitare, un soddisfacente modo del vivere urbano, che in fondo il vivere urbano non è altro che il vivere insieme, il dover vivere in comunità, perché la storia dell'uomo, la conquista del pianeta da parte dell'uomo ha portato alla necessità di aggregare gruppi di persone in un unico spazio e a doverle dotare di un'organizzazione, una separazione dei compiti per vivere. E a questo proposito possiamo forse andare a parlare di quelli che sono alcuni esempi di comuni che hanno attraversato la storia anche recente dell'umanità. Sicuramente il primo presentarsi in maniera esplicita di questa forma di vita nella storia dell'uomo è stata sicuramente la Comune di Parigi, che è stato un po' l'irrompere sulla storia in maniera inaspettata, violenta, di tutte queste idee, anche di questo soggetto nuovo, appunto il soggetto proletario, che finalmente, dopo la disillusione che aveva attraversato tutte le varie rivoluzioni borghesi, dove spesso borghesia e proletariato si trovavano a combattere l'una accanto all'altra, dopo il 48, che appunto è stata un po' questa perdita dell'innocenza, dei vari soggetti proletari in questo progetto condiviso di rivoluzione del mondo, è stato forse il punto, non solo il primo punto, ma anche il punto più alto raggiunto dalla storia, nella storia, né dall'organizzazione di una città. Una città poi gigantesca come Parigi e dei suoi abitanti intorno a un modo di vivere comune. Non a caso i situazionisti definirono la Comune come la più grande festa del XIX secolo, anche qui richiamando due idee vicine, indiscindibili, come sono quelle di felicità, la felicità che appunto attraversa il momento della festa, e di rivolta, che non è altro che un altro modo per chiamare la festa in sé. E altre comuni che ci vengono in mente sono le comuni urbane, i vari squat, i vari posti dove giovani e meno giovani si organizzano sia per vivere insieme ma anche per creare delle bolle d'aria dove poter respirare meglio all'interno della giungla metropolitana ormai dominata in lungo e in largo dall'asfissiante presenza della merce, ma anche quelle comuni molto più limitate nel tempo e nello spazio, ma forse anche per questo molto più intense, che sono le varie comuni che emergono dalle rivolte di piazza, dalle giornate di piazza. E per fare un esempio recente, ne abbiamo parlato anche su queste frequenze, mi viene in mente la manifestazione del 16 marzo dei Gilets Jaunes a Parigi, dove veramente per quello che sono state alcune ore il concetto stesso di tempo sembrava sospeso, e migliaia di persone hanno potuto vivere un'enorme festa collettiva regalandosi a vicenda quello che prendevano dai negozi, attaccando la polizia, esprimendosi liberamente sui muri, stando insieme tra di loro in maniera genuina e non mediata per quelle che sono state alcune ore sulla via degli Champs-Élysées. Non a caso questa sospensione del tempo mi viene da dire che è anche una delle caratteristiche fondamentali della Comune. Non a caso la prima cosa che fecero i comunardi appena preso il potere a Parigi fu di sparare agli orologi, anche per dare una forza simbolica a questa sospensione del tempo. E di sicuro comuni anche più, diciamo, resistenti anche nel tempo rispetto a quelle di cui ho parlato, mi viene in mente di recente quella che poi è stata rivolta a Oaxaca, che comunque ha costituito una comune autonoma per 5 mesi in una città gigantesca, o comunque tutto quello che è il panorama delle ZOD francesi sicuro si colloca sempre in questo sistema qua. Anche i giorni della rivolta di Amburgo, seppur sono durati invece che 5 mesi, solo 5 giorni, però anche in quel caso ci fu un intero quartiere che per un po' di tempo si è governato da solo, si è dato delle regole da solo. Una delle cose che citavi a proposito, cioè la comune di Oaxaca, ci porta anche un esempio interessante, perché proprio in quei mesi in cui Oaxaca si è autogovernata, i dati dicono che il tasso di criminalità in città è calato a picco, pur in una zona del Messico che sicuramente non è una zona tranquilla, che è famosissima per la diffusione di episodi di micro criminalità di cui molte famiglie vivono, però in quei giorni è successa una cosa che a noi non sorprende, ma per molte persone forse andrà contro il senso comune in cui normalmente pensano, ovvero l'assenza di polizia ha diminuito il numero di reati invece che aumentarlo. A noi sembra una cosa scontata, ma per molte persone non è così. Invece un'altra comune a cui possiamo pensare, seppur anche questa è una comune di bassa intensità ma molto diffusa sul territorio, è forse quella che si è venuta a creare in Valsusa negli anni della lotta NoTav, su cui sono state scritte molte pagine anche molto belle. Mi viene in mente un libro uscito qualche anno fa dove la comune della ZAD veniva paragonata alla comune della Valsusa, cioè il libro Contrade, scritto dal collettivo francese Mauvais Troupe. E anche questa è stata sicuramente una comune che si è venuta a creare attraverso la lotta, anche questa molto legata alla dimensione dell'abitare, perché si è costituita proprio in difesa di un territorio e in difesa del modo di abitare quel territorio che sarebbe stato sconvolto dal passaggio del treno ad alta velocità. Ed è una comune che ha avuto i suoi momenti di alta intensità, come possono essere stati i giorni della Libera Repubblica della Maddalena, dove questa forma di vita comune si è proprio manifestata, ha sviluppato, diciamo, il suo punto più alto, dandosi anche una forma reale, spaziale, ma è comunque una comune che, seppur non ha un luogo fisico, seppur magari non attraversa, non è circoscritta in quello che può essere un paese che si autogoverna, è una comune diffusa nei rapporti di tutti quelli che partecipano e hanno partecipato a quella lotta, che sicuramente si sente nel clima della valle, anche per quelle che sono le lotte a venire. Di sicuro è importante anche ricordare che comunque la comunità e la comune non sono cose che nascono dall'uomo moderno, ma che anzi sembra sempre di più, dallo studio, come risulta anche dallo studio di molti antropologi, che in realtà sia l'origine dell'uomo sia proprio in delle comunità simile a quelle che noi ci immaginiamo e che vorremmo costruire. Penso a tutto il sistema delle società gilani, che è ancora decisamente poco studiato, ma appunto società in cui non vi era differenza di genere o di rango, in cui le tombe ritrovate non hanno differenze, come si vede invece magari nella maggior parte delle altre epoche storiche, e che però sono società che sono resistite nel tempo soltanto in determinati ambienti, cioè principalmente le isole, in cui quindi riuscivano a rimanere isolate da quello che era il resto della società che stava avanzando, iniziando comunque a costruire una società atomizzata e sempre più cioè sempre più lontana dalla comunità. E quindi, come anche Tari scrive nel suo articolo che abbiamo citato prima, il concetto di comunità non è un concetto del futuro, ma un concetto del passato che dobbiamo recuperare, e non è un concetto nuovo a cui dobbiamo arrivare. Sì, mi viene in mente anche il lavoro dell'antropologo francese Clastres su le società senza Stato,

si fa la fila e si finisce in fabbrica, oppure si fa prima e si finisce in gabbia. Occhio il loro repertorio quando sa che sogno, piscio sull'autocontrollo e prendo ciò che è vostro. Meglio vendere la droga che comprare views. Meglio crederci di più che credere a Gesù. Meglio guidare l'autobus che l'auto blu. Meglio avere la mia vita che la tua TV. Abbiamo voluto farvi ascoltare questo profondo pezzo di critica sociale, perché pensiamo che anche attraverso queste cose passerà la rivoluzione che viene. Sicuramente. Ok, noi ci siamo detti sicuramente non tutto, però ci siamo detti molto. Diciamo che per oggi abbiamo finito e gli altri argomenti ce li teniamo per un'altra volta. E da Carta Canta è tutto, vi salutiamo, vi ricordiamo che il palinsesto di Radio Wombat prosegue, rimanete sintonizzati su queste frequenze e se ci ascoltate in diretta tra pochi minuti, appena una decina, potete trovare la stampa rassegnata di Passaggi a Nord-Ovest e in seguito la replica di Passaggi a Nord-Ovest, e mentre stasera alle 8 ci sarà Slick Chick. E noi vi salutiamo, ci sentiamo o in replica il giovedì alle 9:30. Ma chi ci ascolta il giovedì alle 9:30, noi no di sicuro perché spesso dormiamo, oppure il... mi sono perso nel foglio delle repliche. Vabbè, comunque trovate il palinsesto completo sul blog di Radio Wombat, come trovate pure tutti i nostri podcast, che mettiamo ovviamente anche sul nostro bellissimo blog Origami. E quindi vi salutiamo, seguiteci, a martedì prossimo. Sta nel fondo. Nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione.